te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. 50 anni dopo, il 68, il 69 e Piazza Fontana. Michele, tu ovviamente ti ricordi benissimo com'era bello quando in corteo si cantava fascisti, borghesi ancora pochi mesi, eh? Bei tempi erano quelli, no? Sì, e padroni ancora pochi eoni. Molti parlano di quel periodo come della famosa rivoluzione culturale, che poi tutto ebbe origine in Cina, no? A quanto pare. E quindi dalla rivoluzione culturale in Italia poi si è sviluppato di tutto in quel periodo lì, no? Quindi rivoluzione culturale, rivoluzione operaia. Ovviamente non parliamo dei livelli di conflitto e di lotta che in Italia si ebbe nel biennio rosso che precedette il fascismo, 19-20, però comunque quegli anni lì furono anni in cui si sancì comunque una rottura radicale nella società, ecco. Quindi la rivoluzione culturale, che aveva caratteristiche diverse in Cina, ovviamente in Italia e in Europa aveva altre caratteristiche, ma comunque sempre di una rivoluzione culturale si trattava, no? In Italia e in Europa occidentale c'è stata una rivoluzione culturale nel senso anche di innovazione politica e dei costumi, però in Italia, soprattutto qui, ma non solo, c'è stato un grande innamoramento, fu un grande innamoramento per la rivoluzione culturale cinese, dove si prese un grande abbaglio. Sembravano tutti filo cinesi, sì, sembrava. Sì, si scambiò un regolamento di conti pluriennale all'interno del periodo comunista cinese con alcune migliaia, diverse centinaia di migliaia di morti per un'innovazione del campo comunista, e quindi era tutto un fiorire di gruppi maoisti, una moda, era quasi impossibile stare a sinistra o all'estrema sinistra senza omaggiare il grande timoniere, in alcuni casi anche con effetti ridicoli. Era famoso Servire il Popolo, anche detto Servire il Pollo, che era un gruppo politico che in realtà si chiamava Unione dei Comunisti Italiani, che osannava Mao e osannava anche i suoi due leader italiani, Aldo Brandirali e Luca Mendolesi. Era un gruppo un po' ridicolo, ci ha fatto anche un romanzo sopra Fulvio Abbate, Quando è la rivoluzione, molto divertente, ve lo consiglio se trova ancora in libreria. In Italia e in Europa la rivoluzione culturale aveva ben donde di svilupparsi e di esserci, diciamo, quindi il richiamo era obiettivamente forzato, comunque quantomeno forzato. Beh, a questo punto, a proposito di rivoluzioni e innovazioni culturali, potremmo parlarne con qualcuno che è stato un protagonista di quel tempo, sia dal punto di vista musicale e poi dal punto di vista letterario, Gianfranco Manfredi. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è, stanno in fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è, sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è, non sta nel mitra lucidato. Ma chi ha detto che non c'è, nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è, non c'è. Abbiamo con noi linea Gianfranco Manfredi, che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto qui a Bologna, però è conosciuto per il movimento del 77, per quello che ha rappresentato il movimento del 77, però lui è un narratore, autore, cantautore, ha vissuto e raccontato anche 68, in maniera particolare quello vissuto a Milano. Chiediamo innanzitutto a lui che cosa rappresenta in primo luogo il 68 e quel periodo complessivamente, diciamo del 68-69, perché abbiamo parlato anche qui di autunno caldo e eccetera. Cosa rappresenta per te e secondo te cosa ha rappresentato per l'Italia quel periodo? Sai, ridurre le analisi a un anno trovo che sia sbagliato, nel senso che il 68 è stato il terminale di molte cose vissute negli anni 60, in generale poi quelli che l'hanno fatta nelle università erano i cosiddetti baby boomers, cioè la generazione di quelli nati nel dopoguerra, quindi avevamo le nostre specifiche istanze. Le prime forme di coscientizzazione politica sono state da ragazzini sul senso della guerra fredda, l'incubo nucleare eccetera, poi per la pace, contro la guerra in Vietnam eccetera, tutte cose, e il movimento dei diritti civili. Il 68 non a caso si è espresso anzitutto con formula politica molto, molto semplice, contro l'autoritarismo. L'autoritarismo c'era sui posti di lavoro, c'era nella società, c'era in famiglia, c'era in università. Era una società gerarchizzata, strutturata in modo vecchio, non corrispondeva più a quella stagione, e noi eravamo come giovani moltissimi, cioè eravamo circa quasi tre volte di più di quanto non siano oggi i giovani tra i 14 e i 24 anni. Questo faceva molto la differenza, perché avevamo anche quantitativamente un protagonismo maggiore. Erano giovani anche gli operai che sono stati protagonisti, e le operaie che sono stati protagonisti dell'autunno caldo. Era una generazione completamente nuova rispetto a quella dell'operaio professionalizzato precedente, insomma. Poi in più, essendoci stato il fatto che i nostri genitori avevano vissuto il trauma della guerra, quello era una prospettiva su cui, quando studi anche a scuola, che prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e poi noi ci troviamo nella guerra fredda, insomma, un'altra guerra mondiale sicuramente non era la cosa augurabile per il nostro futuro. Quindi queste rivendicazioni, che oggi possono sembrare semplici perché si ha un'idea del 68 molto ideologizzata, in realtà erano le richieste base, per cui poi alla fine credo che in qualche modo il ciclo di questa generazione si sia concluso nell'89 con la caduta del muro di Berlino, perché lì abbiamo chiuso un po' un percorso, insomma, essendo la generazione che ha protestato contro la guerra fredda, quello è stato il simbolo della fine della guerra fredda. Poi quello che è successo dopo non è andato sicuramente nella direzione delle nostre speranze, perché non è che abbiamo avuto Imagine di John Lennon, ecco. Però insomma almeno abbiamo messo un punto, ecco. Certo. Tu a proposito utilizzi moltissimo la satira e l'autoironia per raccontare, per interpretare la politica, e quanto è stata importante questi elementi, quanto sono stati importanti nel 68-69 e che differenze ci sono col 77, che comunque alcuni appunto sono sostengono che il 68 è durato fino al 77, ma in realtà forse parliamo di due ambiti differenti. Tu cosa ne pensi? Sono cose un po' diverse, perché all'epoca aveva una differenza di 5 anni d'età, voleva dire molto, perché chi aveva 5-6 anni più d'età della generazione dei baby boomers era nato sotto la guerra, quindi aveva tutto un altro tipo di percorso ed era più legato anche alle tradizioni ideologiche italiane che avevano segnato anche poi la resistenza, eccetera. Mentre invece chi era nato dopo, in un bagno di musica americana, cioè era, diciamo, meno ideologizzato, se si pensa anche a quando eravamo ragazzini, per esempio a Milano infuriava il cabaret, cioè la nuova generazione che era venuta fuori di cantautori ce n'erano tantissimi ironici, no? Non a caso l'unico brano veramente rappresentativo in Italia del 68 è stato Vengo Anch'io di Annacci, che mentre Fone aveva scritto un testo originale molto politicizzato, perché parlava anche di Lumumba, eccetera, il Congo, nella versione di Annacci è semplicemente il racconto di uno spaesato che viene sempre emarginato da tutti. È evidente che non ha posto neanche al suo funerale, capito? Questo è abbastanza evidente, che si annunciava già una figura nuova, giovane precario, no? Senza prospettive, si vedeva escluso dal consenso sociale. Prima la società era tutta molto più ordinata, e questo tipo di esclusione si esprimeva anche un po' in una certa, non il differentismo, perché si studiava, si cercava di capire, ma comunque un superamento di certe barriere ideologiche costrittive, che poi, ti ripeto, per noi somigliavano molto alla guerra fredda, cioè dei due blocchi, capito? Noi eravamo critici nei confronti dell'America tanto quanto lo eravamo nei confronti della Russia di Brezhnev, certo. perché del 68 ha fatto parte anche la primavera di Praga. La primavera di Praga, le cose, quando noi giravamo in vacanza extrascolastica, andavamo a Parigi, a Londra, eccetera, incontravamo tantissimi studenti che venivano dai paesi dell'est e che erano come noi, gli piaceva la stessa musica, le stesse cose, avevano le stesse istanze libertarie. E se si pensa alla svolta, queste svolte nella musica, anche la musica a partire dai Beatles, quindi dal 62, eccetera, era piena di sfumature ironiche, divertenti, un modo di prendersi in giro che non c'era, bisognava risalire per trovare questo tipo di ironia addirittura agli anni tra le due guerre mondiali, insomma, no? Prima del fascismo, per trovare questi stimoli ironici. Quindi per certi versi era più vicino allo spirito dei nostri nonni che non dei nostri genitori, che o fratelli maggiori, che avendone passati di tutti i colori avevano evidentemente meno voglia di ridere. Ecco, noi ci prendevamo in giro un po' più volentieri, era un atteggiamento spontaneo, anche perché all'epoca la satira non era prevalentemente satira politica, era satira dei costumi sociali. Se pensiamo anche al cinema che vedevamo noi da ragazzini, cioè quello della commedia italiana, sui mostri di Dino Risi, Sorpasso, questo tipo di film qua, se uno li rivede, cos'è che si mette in satira? La figura degli italiani nell'epoca del consumismo, del boom, eccetera. È un cinema che rappresenta satiricamente gli italiani, non gliene importa assolutamente niente di fare la satira del governo, dei politici. Su quello si facevano film di denuncia. La vera satira era rivolta a noi stessi, insomma, c'era il senso che bisognava cambiare registro e comportamento. Credo che si sia poi espresso di più nel 77, perché quando uno arriva a scrivere su un muro "questa non è una scritta", sì, sarà anche un richiamo dadaista, eccetera, ma vuol dire che si metteva in satira anche la scritta politica sul muro, cioè era come avere un atteggiamento di distacco mentre si facevano le cose. Come diceva Gaber, va bene tutto, basta non credersi troppo, insomma, ecco. Ultimo moicano, San Pietrino in mano, solo qui nella via, e la barricata dove l'han portata non c'è proprio più. L'ultimo moicano, San Pietrino in mano, non c'è più polizia. Ora chi lo tiro, vado a fare un giro, entro in un caffè e appoggiato a sto bancone bevo un tè con lo spazzino. Lui mi chiede se il comune pagherà, ma io non so che dirti, amico, dai, facciamoci un quartino, forse un giorno questa strada sarà sporca come allora quando ultimo moicano col bicchiere in mano m'han lasciato qui. Forse torneranno, forse quest'altro anno, gli altri come me. Ultimo moicano, faccio un po' di fumo, mi segnalo, va. S'alza nella notte, cerca le marmotte, chi le sveglia più? Per fare un salto in avanti nel tempo, tu hai vissuto molte vite artistiche. Oggi in libreria e in edicola si trovano alcuni graphic novel o fumetti. Io preferirei la definizione fumetti, però pare un po' di modè, che hai sceneggiato, Cani sciolti, che parte dal movimento studentesco e arriva anche alla strage di Piazza Fontana. Tu ti sei fatto un'idea di chi oggi può leggere un fumetto ambientato in quel tempo? Sono gli anziani 70, ottantenni? No, ho fatto molti incontri, anche poi prima che uscisse il fumetto ho scritto un libro sul 77, ho fatto un sacco, insieme a Marco Filopat abbiamo fatto un sacco di giri per l'Italia, di incontri eccetera, con molti ragazzi che sono indubbiamente interessati a queste cose. Più facile parlare del 77, perché poi il 77 è stato anche l'anno del punk e quindi già sono scenari per le generazioni giovani già un po' più familiari, che non fossero quelli precedenti. Però io con Cani sciolti ho voluto raccontare appunto le cose attraverso un racconto di esperienze e di vite quotidiane dei ragazzi, perché poi alla fine credo che sia il modo più semplice, uno perché non si fanno gli spiegoni ma si racconta attraverso le esperienze di vita che non sono mai tagliate con l'accetta, sono sempre piene di contrasti, di contraddizioni eccetera, e due perché in fondo raccontare la crescita di ragazzi che si conoscono quando hanno 18, 19, 20 anni, poi con flashback li vediamo quando sono ormai invece quarantenni o cinquantenni, aiuta a capire i cambiamenti attraverso le vite, insomma, no? E tutti fanno questo percorso qua, perché poi alla fine un ventenne è un ventenne, per il tipo di problemi che si trova non è che è diversa la vita dei ventenni di oggi da come era quella dei ventenni di ieri, sono più o meno i problemi che ha di fronte di crescita e di maturazione sono gli stessi.